30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La Commissione europea ha deciso di sospendere 495 milioni di euro di fondi di coesione all'Ungheria per il 2012 per non aver ridotto il suo deficit eccessivo. Non è una punizione, ma uno stimolo a rimettere in ordine i conti in casa, ha detto il commissario alla politica regionale Johannes Hahn, presentando la decisione a Bruxelles. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Torniamo dunque a parlare di Ungheria. Il mese scorso vi abbiamo raccontato i problemi propri di un paese al centro dell'Europa, da Budapest, una delle più belle e più amate capitali del turismo internazionale, per parlare di una fase complessa in cui all'elemento, diciamo, condiviso diffusamente della crisi economica si è andato progressivamente aggiungendo quello di una vera e propria lacerazione anche culturale e politica, legata strettamente anche alla figura del primo ministro Orban. Dunque questa sera torniamo a farlo con noi in collegamento dalla capitale magiara, un collega, si tratta di Peter Magyar. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Dunque Peter Magyar, corrispondente dell'ANSA in Ungheria, ha vissuto appunto anche in Italia, da lì si spiega il suo perfetto italiano, ma vive e racconta quotidianamente la complessa, ripeto, realtà di questo paese attraverso le agenzie di stampa e anche attraverso Radio 24, per questo lo ringrazio. Allora, nel lancio abbiamo detto Johannes Hahn si è preoccupato di dire non è una punizione, ma vorrei chiedere a Peter Magyar come è stata recepita questa comunicazione dell'UE invece in Ungheria. Proprio come una punizione. Il governo di Orban ha reagito con risentimento e anche colera, ha detto che la misura decisa ieri a Bruxelles è iniqua e priva di fondamento, perché la politica economica dell'Ungheria va nella buona direzione. Hanno detto che la crescita in Ungheria era e rimarrà sulla media europea e il debito pubblico è stato ridotto, ma anche hanno preso proprio ieri sull'effetto senza dubbio sulla misura di Bruxelles, hanno deciso altri tagli per la spesa nel 2012 per un ammontare di circa 100 miliardi di fiorino, che sarebbe circa 360 milioni di euro, cioè un taglio abbastanza forte. E comunque contestano la decisione della Commissione e sperano bene che al Consiglio dei ministri questa proposta non avrà la maggioranza richiesta. Insomma, continua anche quello che si può, semplificando, definire un vero e proprio braccio di ferro tra l'Unione, tra Bruxelles, la Commissione e il governo ungherese, il tutto innescato, possiamo dire, alla fine dello scorso anno, l'entrata in vigore di fatto della nuova legge, la nuova Costituzione ungherese, tutta una serie di misure di carattere economico, politico, ma anche una vicenda che riguarda la libertà di informazione, di cui parleremo tra qualche momento. Quello che però vorrei chiedere adesso a Peter Magyar, dunque, il governo reagisce chiaramente a quella che recepisce e denuncia di fatto come una punizione ennesima, ma l'opinione pubblica ungherese come vede questa fase? L'opinione pubblica qui in Ungheria è divisa profondamente. C'è una maggioranza dietro questo governo, i sondaggi fanno vedere chiaramente che c'è ancora una maggioranza, anche se più ristretto che l'anno scorso alle elezioni. Questa maggioranza è dietro il governo e diventa sempre più ostile verso l'Unione Europea. Non si tratta ormai più dell'euroscetticismo, ma secondo me proprio una opinione contro l'Unione Europea, contro che considera un attacco ingiusto di tutta questa critica che viene da Bruxelles e dalla stampa internazionale, una critica ingiustificata secondo questa parte dell'opinione pubblica, mentre c'è un'altra parte, forse un po' meno consistente ma comunque troppo forte, che vede un aiuto da parte dell'opinione pubblica internazionale contro un regime che diventa sempre più autoritario, secondo questa parte dell'opinione. Ecco, tutto questo accade, lo ricordiamo, siamo come dire, in una settimana che per tutti noi, anche qui a Radio 24, proprio materialmente è iniziato sul terreno greco, è iniziato con le decisioni assunte a Bruxelles sulla Grecia e anche con un forte sentimento che da euroscetticismo diventa appunto anti-europeismo diffuso, alimentato da una profonda crisi economica. Quindi anche per questo riteniamo e continuiamo a farlo qui su Radio 24, raccontare l'Ungheria non solo per la sua centralità, oltre che geografica, anche storica nella storia europea e ben al di là magari dei suoi 10 milioni di abitanti, per rappresentare anche un sentimento da un lato, ma anche una dinamica che proprio la Commissione europea deve gestire all'interno di un'Europa che soffre, si può senz'altro dire, perché quando parliamo di crisi economica in Ungheria, insomma, stiamo parlando di qualcosa di davvero pesante, non è vero Peter? Certo, certo. E non dobbiamo dimenticare che sono in corso proprio a Bruxelles contro l'Ungheria 3 procedure di infrazione per leggi costituzionali ungheresi che vanno contro i trattati e i valori europei secondo il giudizio di Bruxelles, e queste procedure di infrazione fanno un sottofondo alla decisione di sospensione dei fondi di coesione. Questa sospensione fa parte di una procedura per deficit eccessivo. In Ungheria questo deficit eccessivo esiste proprio ormai da 2004, dall'entrata dell'Unione Europea, ma oltre questa procedura di deficit eccessivo ci sono anche le procedure di infrazione per la legge su media, per la legge sulla banca centrale che offende l'indipendenza di questa banca, per i giudici, che una legge che decapita la magistratura ungherese e fa la giustizia in servitudine del governo, cioè leggi che sono propriamente contro i trattati e i valori democratici dell'Europa. E allora questo braccio di ferro con la Commissione è una questione più larga di fondi di euro, fondi di 400 milioni. Insomma, una questione che va ben oltre i 400 milioni, una questione che è stata portata al Parlamento di Strasburgo, dove il presidente Orban si è presentato in un vero e proprio confronto con i vertici della Commissione. Adesso, tra un momento, sentiamo insieme le notizie per chi è in viaggio. Poi però vorrei prendere un altro aspetto, un'altra lato di questa storia, riguarda proprio l'informazione. Peter Maggiar ce l'ha accennato, vi racconteremo, torneremo a raccontarvi del caso di una radio, Club Radio, una radio di informazione come siamo noi, che nell'Ungheria di oggi vive momenti estremamente difficili. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera, bentornati a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Torniamo in Ungheria, al centro dell'Europa, al centro anche delle complessità, delle tensioni che l'Europa vive in questa fase di crisi economica. Ecco, abbiamo accennato a una radio di informazione che si trova proprio sulle sponde del Danubio, accanto peraltro alla sede, alle vestigia, ai più significativi ricordi della presenza romana sul Danubio, quindi davvero un luogo anche interessante da visitare. Una radio che affronta una crisi profonda, una vera e propria battaglia tra l'informazione e lo Stato. Következnek a Klubrádió hírei. Ecco, questo è un notiziario di Club Radio, un notiziario di una radio che fa informazione, di una radio che viene definita di informazione e antigovernativa. Una battaglia per le frequenze, un'asta che viene aspramente contestata. Di fatto, proprio in questi giorni, entro la fine del mese, questa voce potrebbe essere spenta attraverso la cancellazione appunto di una importante frequenza che serve la capitale Magiara. Allora, Peter Magiara, ancora grazie di essere con noi. In che modo questa vicenda è rappresentativa un po' della situazione attuale in Ungheria? Direi di molto. Questo è un emittente di opposizione e forse l'unico ormai che fa veramente una radio di pubblico servizio, che dà informazioni, è un foro di dibattiti dove la vita pubblica, diciamo, è rappresentata abbastanza riccamente. E la frequenza di questa radio è stata tolta dal Consiglio di Medio, organo di sorveglianza nominato da questo governo conservatore, tolta su base di un concorso che secondo Club Radio era falsificato, perché il concorso era indetto per una radio musicale. Che ce ne sono tante in Ungheria che danno da mattina a sera soltanto musica. Invece radio di informazione ce ne sono poche, e questo solo che dà una posizione, diciamo, anche di opposizione. Allora, la licenza tolta è causato un caso, diciamo, emblematico, che è andato anche fino a Bruxelles, perché la commissione se ne occupava. Il commissario Kroes è intervenuta direttamente su questa questione, che ricordo peraltro agli ascoltatori di Radio 24, su www.radio24.it trovate nel nostro archivio appunto storie recenti di non più di 25 giorni fa su questa vicenda. Però ecco, Peter, questa vicenda in realtà in un primo tempo doveva essere chiusa già alla fine di gennaio, poi C'è stato una sorta di rallentamento. Adesso, per carità, in ogni momento potrebbe arrivare una decisione, ma perché questo rallentamento? Ma la licenza è stata prolungata temporaneamente per 2 mesi. Prolungato perché è in corso un processo. La Club Radio ha denunciata al tribunale il concorso falsificato secondo lui, e fino al verdetto di questo processo la licenza è stata prolungata. Il processo va avanti e forse fine marzo ci sarà un verdetto senza appello. Allora il verdetto annulla la decisione del Consiglio di Media e obbliga di fare un altro concorso, oppure approva la decisione di allora, e allora la frequenza 95.3 viene tolta. Vi segnalo a questo proposito www.clubradio.hu come Ungheria, apertura naturalmente in ungherese, ma una bandierina in questo caso britannica ci porta verso il testo in inglese. Magari avrete voglia di cliccare anche da qui, ci sono molti modi per sostenere sostenere anche l'informazione libera, anche cliccando lo si può fare e non è certo una gran fatica. Peter Magyar, questo è uno dei casi emblematici, quindi siamo veramente in mezzo a un guado nel paese, da una parte per la crisi che, come abbiamo detto più volte, è molto più ampia, per certi luoghi, appunto radio, media, simbolo di questa questione. Un altro caso emblematico direi che è quello di Malev, la compagnia di bandiera che è stata messa a terra, proprio per una richiesta da parte della Commissione europea di porre fine al finanziamento, di fatto al sostegno pubblico alla compagnia privata, cosa che è stata ancora una volta l'opportunità per la destra nazionalista di accusare l'Europa. Non solo l'Europa, anche i socialisti al governo precedente per 8 anni. Durante questo governo socialista la Malev è stata privatizzata ai russi, a una compagnia privata russa che è andato in fallimento, e il governo socialista doveva riacquistare la compagnia di bandiera nazionale per mantenere in vita, riacquistare con soldi statali, i sussidi dovevano continuare per mantenere in vita la società. La Commissione ha detto che bisogna finire con questa pratica e allora ha tolto la facoltà al governo di aiutare con sussidi la Malev. Però ci sono stati 2 anni e più di tempo dal riacquisto fino al fallimento di questi giorni. Questi 2 anni, 1 anno e mezzo con governo conservatore di Orban, doveva bastare per mettere in piedi un'alternativa, un'altra società nazionale ungherese, come è successo in Italia con l'Alitalia, e poteva salvare la Malev. Allora ci sono 2 tesi in questo caso: il governo Orban dà la colpa ai socialisti perché la privatizzazione e il riacquisto era senza fondamento e è colpa loro il fallimento di oggi. Invece i socialisti dicono che il governo di Orban aveva tempo largamente per intervenire in e non l'ha fatto. E non l'ha fatto. Peter Magyar, siamo colpa sua. Chiaro, siamo verso la conclusione. Quello che mi sembra ancora oggi di poter dire l'unica certezza è una profonda lacerazione nella società ungherese, una forte sfiducia, diciamo, tra le parti. Ricordiamo 1 anno e mezzo fa, 18 mesi fa, il voto che portò a una grande vittoria, davvero oltre il 50% dei voti a Viktor Orban. Condividi, voglio dire, il senso di questa lacerazione? Magari c'è una linea su cui ritrovare una bozza di armonia nella società ungherese? Ma difficilmente, direi. È una guerra civile fredda, come si dice qui, ma potrebbe anche peggiorare, non lo so, non sappiamo come va a finire questa controversia e ci sono molti che temono che il peggiore non è arrivato ancora in Ungheria. Grazie a Peter Magyar. Da parte nostra, quello che possiamo fare, come dire, è continuare a parlare e a raccontarvi di questo paese, dove appunto Peter Magyar parla di una guerra civile fredda. Questo è anche uno degli aspetti paradossali. Budapest è sempre lì in tutta la sua bellezza, una città tranquilla dove si assiste allo spettacolo, insomma, delle grandi capitali europee, e poi questa profonda preoccupazione di un paese intero, questa lacerazione sociale che rappresenta qualcosa di importante non solo per l'Ungheria ma per l'Europa intera. Lo ricordo ancora, Peter Magyar, corrispondente dell'ANSA da Budapest. Lo ringrazio di essere stato con noi. Peter Bescapè in regia. 30 minuti in cronaca, come sempre, torna in onda sabato prossimo alle 19:30. Buon fine settimana a tutti.